GR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Condanna di 10 anni per l'ex allenatore della società di calcio triestina San Luigi. L'accusa di molestie nei confronti di alcuni giovani giocatori trasformata dai giudici in violenza sessuale. Il processo per il femminicidio di Elisabetta Molaro. In aula la madre ricorda la telefonata del genero. Ho ucciso tua figlia. Oggi la sentenza. Nell'ultimo trimestre del 2022 la produzione industriale è cresciuta in regione dell'11%, ma a frenare lo sviluppo rimane la crisi energetica. Varo tecnico per la prima nave da crociera. C'era gas naturale liquido e la Sun Princess, emissioni abbattute, recupero di calore. In vista delle elezioni in Friuli Venezia Giulia arrivano i big nazionali della politica. Oggi a Udine serie di incontri per il presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte e per il leader del terzo polo e segretario di Azione Carlo Calenda. Solo la metà degli studenti delle superiori conosce le accademie post diploma, sono 4 in regione, garantiscono un tasso di occupazione molto alto già dopo un anno. Tornano in piazza oggi i membri del gruppo Fridays for the Future per lo sciopero globale per il clima. Tra i temi della protesta, oltre all'emergenza climatica, nel corteo di stamane a Trieste anche il no all'Ovovia, all'espansione dell'ospedale di Cattinara e ai cogeneratori della SIOT. Presentati a Udine gli eventi collaterali alla prossima tappa in Friuli del Giro d'Italia, organizzati per la prima volta senza il patrone Enzo Cainero, anima della corsa in regione, scomparso di recente. Ma la tradizione e la passione rimangono in famiglia con il figlio Andrea. Le 7:19 minuti e 45 secondi, questi titoli. Buongiorno da Giorgio Bearz e Dario Ronzoni per questa prima edizione del giornale radio del Friuli Venezia Giulia di venerdì 3 marzo. In apertura diamo subito uno sguardo alla situazione del meteo e alle previsioni per oggi. La nuvolosità è variabile sulla regione, le temperature registrate alle 6. A Trieste ci sono 8 gradi e 5 decimi, il vento soffia da est-nord-est bora a 25 km orari con raffiche che hanno raggiunto nella notte i 40 km orari. A Pordenone e Gorizia 1 grado, a Udine 2 gradi, a Tolmezzo e Tarvisio meno 1 grado, a Fondi di Sopra meno 2, a Sappada e Piancavallo meno 4 gradi. Sul Monte Zoncolan meno 2 gradi, sul Lussari meno 4, a Grado 6 gradi e 5 decimi, a Lignano 5 gradi. Le previsioni per oggi, cielo in genere variabile, nel Tarvisiano al mattino probabile ancora cielo coperto per nubi basse, sulla costa e sulle zone orientali soffierà bora moderata. In apertura dunque la condanna a 10 anni dell'allenatore di una società di calcio triestina, il San Luigi, per violenza sessuale ai danni di una dozzina di ragazzini, una condanna più pesante rispetto a quella che era stata la pena richiesta dall'accusa. Non solo, il giudice ha anche cambiato il capo di imputazione da molestia a violenza sessuale. Non c'è soddisfazione tra le 14 parti civili nonostante la sentenza di condanna a 10 anni di reclusione a carico dell'ex allenatore di calcio del San Luigi di Trieste per reati verso atleti minorenni emersi nel gennaio 2021 e riqualificati da molestie a violenze sessuali. Spiega l'avvocato di 8 parti civili, Nicole Pertot. Abbiamo delle conseguenze psicologiche sui ragazzi che attualmente non sono determinabili e che probabilmente si manifesteranno tra qualche anno. L'immagine del San Luigi Calcio ingiustamente offuscata. L'avvocato della difesa, Denise Rodriguez, da noi raggiunta al telefono, ora attende le motivazioni del giudice per presentare appello e in caso intende arrivare fino in Cassazione, sottolineando che a favore del suo assistito hanno testimoniato adulti allenati in passato dall'uomo per evidenziare il comportamento di una persona a loro avviso corretta. Testimonianze considerate poco attendibili dalle parti civili, così come quella della moglie. La difesa ha evidenziato contraddizioni tra le testimonianze dei minori coinvolti, con incertezze sul visto e raccontato il vissuto di fatti accaduti nel 2019, con incongruenze che, secondo le parti civili, non sarebbero rilevanti su eventi del passato. Rileva l'avvocato di 4 parti civili, William Crivellari. I minori sono stati giudicati attendibili, è stata fatta una lunga istruttoria in un processo dove sono state applicate tutte le garanzie, per cui non c'è motivo di dubitare di quello che è stato riferito. Rodriguez ha infine dichiarato che la decisione del giudice si è basata su messaggi inviati all'uomo su telefoni dei giovani accessibili ai genitori e che su questi presupposti nessuno può sentirsi assicuro nell'approccio a minori seppur privo di malizia. Diverso il parere delle parti civili. Erano messaggi assolutamente inspiegabili tra una persona di 50 anni e un bambino di poco più di 10 anni. Trieste, Maria Spezia, TGR, Friuli Venezia Giulia. E ora parliamo di un altro processo per un'altra vicenda che ha destato molta impressione, l'omicidio di Elisabetta Molaro, madre di due bambine, uccisa lo scorso giugno a Codroipo dal marito con 71 coltellate. Un femminicidio da manuale. L'uomo che rischia l'ergastolo in aula ha letto una dichiarazione spontanea. La sentenza è attesa nel pomeriggio. È atteso per oggi, dopo la discussione tra le parti, il verdetto della Corte d'Assise di Udine sul femminicidio di Codroipo. Il reo confesso omicida di Elisabetta Molaro, il marito Paolo Castellani, rischia l'ergastolo se non dovessero essere riconosciute attenuanti. Ieri in aula la testimonianza della madre di Elisabetta, Petronilla Beltrame, che all'1.46 di notte di quel 15 giugno 2022 ricevette la chiamata dal genero: «Ho ucciso tua figlia». In tribunale la descrizione di un matrimonio in crisi da tempo, pratiche per la separazione in corso, lui non accettava l'idea. Geloso, aggressivo e possessivo, la controllava ossessivamente, indicano le testimonianze. Lei non ce la faceva più. L'assassino ha letto una dichiarazione spontanea. Si è detto dispiaciuto se persone come la suocera nutrano ancora astio nei suoi confronti. Dall'analisi del cellulare dell'omicida, l'unico esaminabile, è emersa la cancellazione di alcuni messaggi. Il presidente della Corte ha respinto la richiesta del legale dell'imputato, Paolo Bevilacqua, di perizia psichiatrica. Udine, Lillo Montalto Monella, TGR, Friuli Venezia Giulia. E parliamo di economia. L'indagine congiunturale del quarto trimestre 2022 di Confindustria Friuli Venezia Giulia ha evidenziato che l'industria regionale resiste ed è in espansione nonostante l'impatto sempre più forte dei prezzi dell'energia. L'industria del Friuli Venezia Giulia continua a crescere nonostante il tema energetico, più 10,7% negli ultimi tre mesi del 2022 rispetto ai tre mesi precedenti. L'analisi di Confindustria però ha evidenziato anche che rispetto allo stesso trimestre del 2021 la produzione è diminuita del 2,9%. Nei primi sei mesi dell'anno scorso le imprese manufatturiere della regione hanno dimostrato di aver superato il gap produttivo dovuto alla pandemia, ma nel secondo anno hanno subito gli effetti dei costi energetici e dell'incertezza a seguito del conflitto in Ucraina. Meglio anche il portafoglio ordini, più 3,1% rispetto all'anno precedente e più 7,3% rispetto al terzo trimestre. In ripresa l'industria meccanica, più 2,3% rispetto allo stesso trimestre 2021, e alimentare, più 6,2%. In flessione invece siderurgia, legno e mobile, carta, chimica, gomma e plastica. Permangono gli elementi di incertezza il comparto delle costruzioni, ad esempio dopo la forte crescita legata agli incentivi fiscali, sta ora rallentando. Secondo lo studio di Confindustria, la flessione dell'inflazione continuerà a penalizzare i consumi, con riflessi anche sul manifatturiero, il quale risentirà inoltre della decelerazione del commercio mondiale. Si attenua la spinta del prezzo del gas, ora sceso a 47 euro, e quello del petrolio, stabilizzato a 83 dollari al barile. Probabilmente siamo in espansione, supportata anche dagli investimenti per ridurre le emissioni di CO2, dal PNRR e dal riassetto geopolitico, il commento del presidente reggente di Confindustria FVG, Gianpietro Benedetti. Trieste, Vaciuc, TGR, Friuli Venezia Giulia. A godere di buona salute è senz'altro il comparto della cantieristica, anche grazie all'innovazione tecnologica. Varata negli stabilimenti Fincantieri di Monfalcone, una nuova nave da crociera a basso impatto ambientale che funziona a gas naturale liquefatto. La prima nave da crociera a gas naturale liquefatto mai costruita da Fincantieri si chiama Sun Princess, rispettosa dell'ambiente perché la sua tecnologia utilizza il combustibile fossile più pulito al mondo, è in grado di ridurre le emissioni atmosferiche e l'utilizzo di gasolio. Oggi il varo tecnico con l'allagamento del bacino, la consegna prevista nel primo trimestre del prossimo anno. Luigi Matarazzo, direttore generale divisione navi mercantili di Fincantieri. All'interno della nave ci sono delle casse molto grandi, sono migliaia di metri cubi. Questa nave sarà principalmente alimentata a LNG, quindi liquido gas naturale liquefatto. E cosa significa? Che i motori possono, la dico semplice, cioè possono bruciare sia nafta pesante che LNG. Quando la nave quindi opererà, e lo può fare per determinate miglia, quindi non solo quando sta in porto ma anche quando è in navigazione, la nave avrà un minore emissioni nell'atmosfera di COx, di NOx e di tutte quelle che sono poi le fonti di inquinamento. 175.500 tonnellate di stazza lorda per ospitare 4.300 passeggeri e anche la più grande mai costruita in Italia, lunghezza di 340 metri, ovvero più di 3 campi da calcio. La sua gemella, per la Princess Cruises, sarà invece consegnata nel 2025. Una nuova era di navi da crociera, con soluzioni all'avanguardia anche dal punto di vista del condizionamento e della capacità di recuperare l'energia prodotta a bordo. Sapete che ci sono dei regolamenti nuovi che sono entrati in vigore da pochi mesi, anni, e che porteranno poi le navi ad essere a emissioni zero. Fincantieri è presente non solo con l'LNG ma anche con altre soluzioni tecnologiche come ad esempio combustibili alternativi, metanolo, ammoniaca o addirittura le fuel cell alimentate ad idrogeno. Fincantieri ha costruito in 33 anni 42 navi da crociera nello stabilimento di Monfalcone. Sulla Sun Princess in un anno lavoreranno circa 6.000 addetti. Monfalcone, Sebastiano Franco, TGR, Friuli Venezia Giulia. E siamo alla politica, siamo entrati in pieno clima preelettorale, la questione ambientale è stato uno dei temi importanti del primo incontro pubblico della campagna del candidato presidente del centro-sinistra e dei 5 Stelle, Massimo Morettuzzo, che ha scelto di partire da Aquileia. La prima città UNESCO che rischia di finire sott'acqua a causa dei cambiamenti climatici, ma anche una roccaforte del centrodestra. Comincia ufficialmente da qui la corsa verso la presidenza della regione di Massimo Morettuzzo e non a caso, spiega il candidato, alla vigilia della nuova manifestazione dei Fridays for Future, una campagna elettorale che ad Aquileia il capogruppo uscente del Patto per l'Autonomia ed ex sindaco di Mereto di Tomba annuncia essere fortemente centrata sulla questione ambientale e sostenibilità, tutta in cammino attraverso i territori più fragili e compromessi come il tagliamento in secca, la tappa di sabato. Per Morettuzzo si sta pagando il prezzo di anni di inerzia dei governi centrale e regionale. La specialità regionale dovrebbe essere utilizzata per fare prima e meglio dello Stato le scelte che servono. Non possiamo parlare di emergenza, rincorrere sempre le emergenze, dobbiamo anticipare le scelte che sono necessarie per mettere in sicurezza il nostro territorio dal punto di vista della gestione dell'acqua, dal punto di vista di un altro modello di sviluppo che è indispensabile. Sanità, lavoro, rilancio dell'autonomia e specialità di una terra di frontiera, gli altri temi cardine del suo programma nel quale si ritrova unita in un impegno comune l'ampia coalizione a suo sostegno. In sala hanno preso la parola i rappresentanti del Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Patto per l'Autonomia, Open Sinistra FVG, Unione Slovena e Alleanza Verdi e Sinistra, con molti altri esponenti di queste forze presenti in platea. Una coalizione coraggiosa accomunata dalla volontà di cambiare le cose, rimarca Morettuzzo, che conta molto sui giovani e sulle donne prevalenti nella sua lista. Ci crede, incoraggiato dall'entusiasmo e dalla partecipazione che dice di aver già raccolto dalla montagna e dai territori dove in anteprima è partita la sua sfida. Aquileia, Lara Boccalon, TGR, Friuli Venezia Giulia. E lo stesso Morettuzzo accompagnerà oggi il presidente del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, che sarà a Udine per una serie di incontri legati alla campagna elettorale regionale, ma toccherà anche argomenti dell'attualità politica nazionale. Alle 11 l'ex presidente del Consiglio farà visita alle case popolari Ater di via Basaldella. A mezzogiorno sarà all'Executive Hotel, dove incontrerà associazioni e sindacati per discutere del superbonus 110%. Alle 15 nella stessa sede è in programma una conferenza stampa per presentare le liste del Movimento 5 Stelle per le regionali e sempre qui alle 17 incontrerà il candidato sindaco di Udine, Ivano Marchiol, insieme alla lista dei candidati al Consiglio Comunale. Anche un altro leader nazionale, quello del Terzo Polo, il segretario di Azione Carlo Calenda, sarà oggi in regione in occasione della presentazione del candidato presidente alla regione Alessandro Maran. Insieme a lui saranno presenti anche i parlamentari Elena Bonetti, Ettore Rosato e Isabella De Monte. Appuntamento a Udine in Sala Madrassi, in via Gemona, alle 18. Mentre alle 8.45 del mattino in piazzetta Lionello la lista Liberi Elettori Io Amo Udine inaugurerà l'avvio della campagna elettorale con un presidio sul tema della sicurezza. Interverrà il candidato sindaco Stefano Salmè. È stato sottoscritto l'accordo stralcio sulle RAR 2023 da parte della Regione e delle organizzazioni sindacali del comparto infermieristico. L'intesa è stata firmata, spiegano in un comunicato UIL FPL Nur Sind, per senso di responsabilità, in modo da mettere a disposizione delle aziende sanitarie risorse aggiuntive per erogare i compensi al personale del comparto e garantire così la prosecuzione dei pagamenti per richiami in servizio, cambi turno e altre maggiorazioni nel primo trimestre dell'anno corrente. I sindacati hanno ribadito la richiesta alla Regione di autorizzare le aziende sanitarie a utilizzare il bilancio per pagare parte delle ore eccedenti prodotte dal personale, che altrimenti ricadrebbero sulle risorse aggiuntive regionali. Una sanità senza più medici è il titolo dell'incontro promosso oggi a Pantianicco di Mereto di Tomba, dove si discuterà di sanità regionale, inizio alle 20:30. E in occasione della prima giornata mondiale dell'udito, Luco di otorinolaringoiatria dell'ospedale di Catinara di Trieste intende far conoscere l'attività della clinica. Ogni anno, comunica, nella struttura si effettuano circa 1.000 interventi chirurgici maggiori, oltre a 25.000 prestazioni otorinolaringoiatriche. Solo nel corso del 2022 sono stati compiuti 75 interventi di microchirurgia otologica, mentre oltre 100 pazienti hanno superato difficoltà all'udito grazie all'applicazione di una vite in titanio dietro al padiglione auricolare. Per quanto riguarda i bambini, anche l'audiologia del Burlo Garofalo di Trieste è in prima linea e per la giornata mondiale dell'udito sarà attivo un indirizzo mail a disposizione esclusiva dei pediatri, degli operatori, delle cure primarie per rispondere a quesiti diagnostici, clinici e scientifici. In alcune città del Friuli Venezia Giulia tornano in piazza oggi i membri del gruppo Fridays for the Future, per lo sciopero globale per il clima. A Trieste il corteo parte alle 9 da piazza Ober. Tra i temi della protesta, oltre all'emergenza climatica, anche il no all'ovovia e la contrarietà all'espansione dell'ospedale di Cattinara e ai cogeneratori della SIOT. A Gorizia la manifestazione parte invece alle 8:30 dal piazzale della stazione ferroviaria. Parte oggi il 79esimo convegno dell'ANDIS, l'associazione dei dirigenti scolastici, dal titolo Quale scuola media? Questioni, prospettive ed esperienze sulla scuola secondaria di primo grado. L'appuntamento, che dura oggi e domani, è in programma dalle 14 nell'aula magna della scuola primaria Gabelli a Pordenone. L'idrogeno come traino all'innovazione e alla transizione energetica del sistema produttivo della regione è il tema al centro dell'incontro di oggi a Trieste, organizzato da Confindustria Alto Adriatico e Confindustria Udine insieme alla regione. I relatori parleranno del progetto Valle Idrogeno, un ecosistema integrato transnazionale che si svilupperà dal nord Adriatico assieme a Slovenia e Croazia. L'obiettivo è di accelerare la decarbonizzazione. L'evento comincia alle 14 al Savoia Excelsior Palace a Trieste. Sicurezza Città di Udine 2023, uomini, tecnologie e tecniche per rendere sicure le città del futuro. E questo è il titolo dell'evento che si svolgerà dalle 8:30 alle 18 nel Salone del Popolo di Palazzo d'Aronco, realizzato dall'Associazione Italiana Sicurezza Sussidiaria e dal Dipartimento di Scienze Matematiche, Informatiche e Fisiche dell'Università Friulana. L'evento offrirà uno spaccato reale e soluzioni operative per acquisire conoscenze e competenze per operare negli ambiti della sicurezza privata e darà diritto agli addetti ai lavori al certificato formativo valido per la prosecuzione della licenza investigativa. Parliamo ora di geopolitica, la guerra in Ucraina, i possibili sviluppi del conflitto, il comportamento della Cina e soprattutto quello dell'Europa sono stati al centro della prima giornata dei dialoghi aperti per il futuro che si chiudono oggi alla Camera di Commercio di Udine alla presenza del giornalista Federico Rampini con esperti internazionali e alcuni protagonisti del tessuto economico regionale. Dai dialoghi sulla geopolitica promossi dalla Camera di Commercio di Udine e Pordenone, il ministro Tajani nel video messaggio, oltre a ribadire il pieno sostegno a Kiev, ha annunciato la prossima conferenza a Roma con i colleghi dei Balcani e dell'Unione Europea. Un'Europa, è stato detto da più relatori, che ha dimostrato notevole compattezza dall'inizio dell'aggressione russa all'Ucraina. La tenuta dell'Occidente è, secondo Federico Rampini, motivo di studio anche per i cinesi. La Cina ha l'intenzione di annettersi Taiwan, Xi Jinping lo ribadisce ogni volta che ne ha l'occasione. E sta studiando la guerra in Ucraina, osserva quanto l'Occidente riesce a rimanere coeso, quanto durerà la solidarietà dell'Alleanza Atlantica. Il ricercatore francese Gilles Gressani, fiero delle sue origini carniche, colloca il conflitto in Ucraina in un contesto di seconda guerra fredda, in cui i due contendenti sono soprattutto Cina e Stati Uniti. Una guerra che, nonostante tutto, ha messo la transizione ecologica in cima all'agenda politica europea, mentre il mondo occidentale sta da 20 anni affrontando l'impoverimento della classe media. Udine, Nada Cioc, TGR, Friuli Venezia Giulia. Sarà inaugurata oggi a Trieste la mostra documentaria Sfizi di Posta, la storia attraverso la posta attraverso la storia. L'esposizione, che apre alle 11 al Museo Postale e Telegrafico della Mitteleuropa, è stata curata dal filatelista Marco Occhipinti, ideatore e animatore di Sfizi di Posta, spazio web, dove racconta le storie nascoste dietro a lettere, telegrammi e francobolli. Gli abbiamo chiesto quali segreti ha in serbo la mostra per il visitatore. Sono una sessantina di sfizi esposti in mostra per un totale di 156 schede su un complessivo di 14-15 bacheche, che sono quelle appunto presenti al Museo Postale e Telegrafico della Mitteleuropa, e vertono sui più disparati argomenti naturalmente del nostro bel paese dall'Ottocento ad oggi, e in particolare ci sono alcune testimonianze soprattutto della zona di Trieste e del Friuli. E quali sono quelle più interessanti secondo lei? Sicuramente ad esempio c'è uno sfizio riguardante il purtroppo famoso, triste terremoto del Friuli del 76, quando naturalmente la prima cosa che fece Poste Italiane fu quello di portare gli uffici postali mobili per consentire alle persone di comunicare con il resto del mondo, con gli altri parenti, con gli altri amici, e quindi l'utilizzo della franchigia postale, cioè la possibilità di spedire lettere senza francobollo. E in particolare nel pezzo che è mostrato presente in mostra è addirittura una cartolina trasportata pure con mezzi militari. Nell'immediatezza dell'emergenza si usava anche quello. Ci sono anche quelle di Garibaldi, giusto? Esatto, c'è ad esempio una corrispondenza legata alla nuora di Garibaldi, donna Costanza, che aprì un ospedale alla Maddalena, e il gestore dell'ospedale scriveva a donna Costanza per avere informazioni relativamente all'andamento finanziario dell'ospedale. Quindi la storia attraverso la posta e la posta attraverso la storia. Esatto, questo è il sottotitolo che ho dato alla mostra, perché in realtà i documenti postali non sono altro che un magnifico, incredibile testimone della nostra storia, e noi non la raccontiamo per sentito dire, ma la raccontiamo appunto con i documenti veri, e i documenti non chissà di chi, ma della gente comune, che descriveva appunto quello che accadeva attorno a sé. I quattro istituti tecnici superiori della regione puntano a raddoppiare la loro offerta formativa entro il 2025 per formare tecnici che sappiano affrontare la transizione verde e quella digitale. Un aiuto arriverà anche dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, 16 milioni per realizzare nuovi laboratori. Tra i diplomandi dei licei scientifici e istituti tecnici del Friuli Venezia Giulia, solo la metà sa che cosa siano i corsi ITS. È uno dei dati forniti dalla società SVG, di cui si è discusso in un incontro nella sede della regione a Trieste. Gli istituti tecnologici superiori Academy, questa la nuova denominazione, sono corsi post-diploma realizzati in stretto collegamento con le imprese. Il tasso di occupazione a un anno dalla fine degli studi è dell'82%. Michelangelo Agrusti, Confindustria Alto Adriatico. Avremo bisogno del doppio degli alunni nell'ITS, perché è una scuola che è stata poco pubblicizzata, quasi fosse una scuola di serie B, invece è un istituto di altissima formazione. In regione gli ITS sono quattro, due hanno sede principale a Trieste, l'Istituto del Volta, che forma tecnici del settore biomedico, e l'Accademia Nautica dell'Adriatico, dedicata all'ambito marittimo e portuale. Per tutti l'obiettivo è aumentare i campus. Bruno Sveck, Accademia Nautica dell'Adriatico. Abbiamo un campus come Accademia qui a Trieste, c'è un campus anche del Volta. Stiamo ragionando anche per poter ottenere dei campus anche a Udine e anche a Pordenone. A Udine ci sono i corsi dell'ITS del Malignani sulle nuove tecnologie per il Made in Italy, e a Pordenone l'ITS Alto Adriatico, che forma tecnici dell'informatica. Oggi abbiamo tutte le discipline dell'information technology, della cyber security, 4.0, al cloud, eccetera, per cui questi ragazzi, quando si diplomano, consegnano i diplomi, sono quasi tutti, direi il 95% sono già prenotati dalle aziende. Livia Liberatore, TGR Friuli Venezia Giulia. A proposito di scuole, allo IAL, l'Istituto Alberghiero di Aviano, è stato introdotto un nuovo corso sperimentale molto particolare dedicato ai pasticceri. Avvicinare i giovani agli anziani con Alzheimer o demenza, disturbi che interessano 2 persone ogni 100 in Friuli Venezia Giulia, patologie in crescita ma per le quali i lavoratori del commercio non ricevono alcuna preparazione specifica. Lo IAL, scuola alberghiera di Aviano, 220 studenti, vuole fare la differenza introducendo un corso triennale sperimentale. Tania Della Libera, coordinatrice della scuola alberghiera. È importante conoscere come affrontare al meglio questo tipo di situazione nell'ottica dell'accoglienza e non del timore. Ilenia Zilli, psicologa e formatrice con metodo Gentle Care. Ad esempio, le persone con demenza hanno bisogno di avere delle cose molto visibili, colorate, confondono il piatto bianco, ad esempio, con la tovaglia bianca. Quindi è bene che il piatto sia colorato e ben visibile, come anche le posate e il bicchiere. Molto motivati a saperne di più, gli studenti, futuri pasticceri. Mia nonna aveva l'Alzheimer e è stata a casa nostra per un periodo di tempo. Vorrei saperne tanto di più perché potrebbe capitare comunque un domani, magari apro la mia pasticceria, potrebbe capitare qualche signore e signora malato di Alzheimer. Il progetto è frutto della collaborazione tra il servizio sociale dei comuni Livenza Cansiglio Cavallo e la cooperativa Itaca. Katia Pantarotto, referente dell'area domiciliarità del servizio sociale integrato. I ragazzi sono venuti a trovare gli anziani di un centro diurno qui del nostro territorio a Polcenigo. I ragazzi ascoltano ma portano anche le loro esperienze, soprattutto in questo campo, quelle che riguardano un po' l'aspetto proprio della pasticceria, degli odori, profumi che molto agli anziani sono molto cari. Aviano, Francesca Terranova, TGR, Friuli Venezia Giulia. E apriamo la pagina dello sport. Ai campionati mondiali di Planitza, l'Italia ha chiuso al 7º posto la staffetta femminile 4x5 km di sci di fondo. Del quartetto ha fatto parte anche la carnica Cristina Pittin, che ha confermato nell'occasione la buona condizione dimostrata già nelle prove individuali dei giorni scorsi. Schierata nella seconda frazione a passo classico, la Pittin ha recuperato 3 posizioni, passando dal 9º al 6º posto. Nelle frazioni a tecnica libera l'Italia ha proseguito in tandem con la Francia, che però ha bruciato la formazione azzurra nella volata per il 6º posto. E sempre a Planitza, per il salto dal trampolino grande, Francesco Cecon, atleta di Cucco di Malborghetto, ha ottenuto la qualificazione alla gara di oggi con una misura di 118 metri e mezzo. Calcio Serie C, la gara Pordenone-Pergolettese, valida per il girone A in programma domenica alle 17:30, si disputerà allo stadio Omero Tognoni di Fontana Fredda, lo ha disposto la Lega Pro. Basket, per la Final 8 di Coppa Italia di Serie A2 femminile, la Women Apu del Ser di Udine sarà impegnata oggi in trasferta a Battipaglia. Coach Massimo Riga può contare su tutta la squadra al completo grazie al rientro della playmaker Giorgia Bovenzi. Pallanuoto, oggi in programma i quarti di finale della Coppa Italia femminile. Le ragazze di Trieste affronteranno la formazione di Rapallo alle 17:30 con diretta su Rai Play 2. Ciclismo, sono stati presentati a Udine gli eventi collaterali alla prossima tappa in Friuli del Giro d'Italia, organizzati per la prima volta senza il patron Enzo Cainero, anima della Corsa Rosa in regione, scomparso di recente. Ma la tradizione e la passione rimangono in famiglia con il figlio Andrea. Le tappe del Giro d'Italia sono ormai diventate degli eventi che trascendono l'aspetto prettamente sportivo. Sono anche momenti di promozione del territorio e feste dove le varie comunità celebrano se stesse. Gli eventi collaterali della cronoscalata al Monte Lussari, programmata per il 27 maggio, sono stati presentati in regione a Udine in una conferenza stampa dove, inevitabilmente, più volte è stato nominato Enzo Cainero, il patron di sempre della Corsa Rosa in Friuli Venezia Giulia. È toccato al figlio Andrea tratteggiare il programma. Il primo sarà venerdì 24 marzo, la grande serata che faremo a Tarvisio con la premiazione di tanti sportivi del Tarvisiano che hanno onorato lo sport a Tarvisio. Poi presenteremo la tappa. Il secondo evento importante sarà sabato 20 maggio, la pedalata ecologica che abbiamo chiamato Together for Lussari, e cioè inaugureremo la strada del Lussari per la prima volta con le bici elettriche. Il terzo evento sarà l'immancabile Notte Rosa, che sarà nella notte tra il 25 e il 26 maggio. Udine, Armando Mucchino, TGR Friuli Venezia Giulia. Alle 7.46 minuti e 45 secondi cominciamo la rassegna stampa di oggi dalla prima pagina del Piccolo, edizione di Trieste. Condannato a 10 anni per gli abusi sui giocatori, i genitori degli allievi del San Luigi dicono hanno creduto ai nostri ragazzi. La difesa dice che faremo appello. A centro pagina poi la fotonotizia, dai motori spaziali al grano, così Trieste diventerà porto di Kiev. Il governo sta coordinando un tavolo tecnico in vista della conferenza per la ricostruzione di aprile. Già prima di quella data il corridoio sarà attivo, dice il ministro Urso. Italia capofila di un progetto che coinvolge più paesi. Gli operatori dicono non solo armi, va aiutata l'industria, noi pronti a giocare un ruolo di primo piano. I sacchi senza impronte di Lilli e la testimonianza sulla sera del 4 gennaio, dettagli emersi dalle indagini quando il corpo è stato ritrovato il 5 gennaio del 2022, non portava guanti, l'avvistamento di un uomo in zona impossibile da verificare. Oggi al TAR arrivano le carte del ricorso per fermare la cabinovia, poi ricorso alla Corte dei Conti. Il comitato che si oppone al progetto parla di motivazioni di tipo ambientale, paesaggistico e trasportistico e dice stiamo preparando un altro dossier molto dettagliato per il bene della città. Navi fermi in rada e conta dei danni, ma la bora se ne va, il peggio è alle spalle, agibile via Sottomonte, sollievo dei residenti di Piscianzi, riaprono i parchi urbani e il porto torna via via a funzionare. Si prepara la stagione dei grandi concerti estivi, torna a Trieste Biagio Antonacci in piazza il 15 luglio, Zucchero a un passo. Due villaggi in centro città per l'adunata degli alpini. Questa è l'apertura del Messaggero Veneto nell'edizione di Udine. Per festeggiare gli alpini ci saranno 139 stand alimentari. La giunta ha definito il bando pensato per i venditori ambulanti che sarà pubblicato il 15 marzo. La fotonotizia è per la prima pagina è per il compleanno di Zico. Sono 70 anni di un mito. I friulani sanno che ho dato il meglio, dice. E ancora la testimonianza per il delitto di Codroipo. Mi telefonò e disse ho ucciso tua figlia. Poi gli appuntamenti politici con l'arrivo in città di Conte e quello di Calenda. Infine a fondo pagina la storia del carnico che in Germania prepara il gelato con la farina di grillo. Nell'edizione di Pordenone, sempre del Messaggero Veneto, l'apertura è per i lavori per la viabilità dell'ospedale. Il rincaro di 900.000 euro sarà coperto dal comune, mentre i costi totali sono lievitati di oltre 3 milioni. La fotonotizia anche qui per i 70 anni di Zico e poi c'è la morte del carabiniere Mario Russi, il primo che entrò nella Trieste liberata. E poi la storia di un dente antichissimo, ritrovato nelle grotte di Pradis, ha permesso di ricostruire il genoma di una tribù di cacciatori di migliaia di anni fa. Dalla prima pagina del Piccolo, edizione di Gorizia e Monfalcone, la fotonotizia con la prima nave di Fincantieri a gas naturale liquido varata a Monfalcone ieri. Rinforzi in arrivo per potenziare i due ospedali, previste 82 assunzioni tra Aria Esontina e Giuliana. Il direttore Poggiana dice è difficile trovare infermieri, ne mancano una ventina. Nelle pagine della cronaca, cantiere ostacoli all'ex De Amicis, prorogata a luglio la fine dei lavori, l'intervento più complicato del previsto, ma ora c'è l'ultimatum, serve per il prossimo anno scolastico. Nelle pagine da Monfalcone, il canale Locovaz, ostaggio dei fanghi, in fuga 48 diportisti. Infine il fallimento della Comar Costruzioni, un passivo di 3,5 milioni, sono 45 i creditori. L'Agenzia delle Entrate vanta oltre 1 milione di crediti, fra i comuni quello di Monfalcone 174.000 euro. Il Gazzettino nell'edizione di Udine apre invece sulla sanità. Fuga dalla sanità, 800 hanno mollato. L'assessorato regionale ha dato le cifre di medici e infermieri che negli ultimi 5 anni si sono dimessi dal servizio pubblico. Secondo il sindacato c'è un clima invivibile. La fotonotizia è su Tarvisio, 20ª e ultima tappa del Giro d'Italia che si concluderà su Lussari, definito il calendario degli eventi collaterali. Per la cronaca, uccise la moglie, era diventato geloso e troppo possessivo. Stiamo parlando dell'omicidio di Codroipo. Queste sono le parole della madre. E ancora l'economia, per l'industria si vedono i primi segnali di ripresa. Anche nell'edizione di Pordenone sul Gazzettino apre sulla fuga degli 800 dalla sanità, mentre nella fotonotizia cresce la febbre nero-verde in attesa del ritorno a casa del Pordenone. Domenica giocherà al Tognon e ci saranno almeno 2.500 tifosi. E poi c'è il treno inutile della linea Sacile-Gemona che obbliga allo stop le automobili sulla Pontebbana e provoca più inquinamento. Infine la storia dell'aggressione con lo spray al ragazzino a Bagnarola di Sesto al Reghena. si rivela tutta un'invenzione, era stato colpito per sbaglio da un amico. E ora uno sguardo sugli appuntamenti, alcuni degli appuntamenti di oggi in regione. Comincia oggi e per 3 giorni la rassegna Udine in cioccolato in Piazza Matteotti. La manifestazione offre degustazioni agli stand, laboratori e incontri con gli esperti. L'inaugurazione è prevista alle 11.30, mentre dalle 11.45 parte il primo percorso educativo all'interno della Cioco Fabbrica, la prima fabbrica culturale del cioccolato itinerante in Europa. Come omaggio al regista e attore Franco Giraldi è in programma da oggi la presentazione in 3 serate della sua trilogia della frontiera. Si comincia con il film La Rosa Rossa, introdotto da Luciano De Giusti. Ambientato subito dopo la Prima Guerra Mondiale, il film racconta la storia della visita di un ex generale dell'esercito austro-ungarico al cugino a Capodistria, dove affiorano i ricordi del passato. Inizio alle 20.45 al Cinema Zero di Pordenone. Al Teatro Bratus di Gorizia, concerto di Aere Fragmenta con gli ottoni del Conservatorio di Udine, musiche di Tilman Susato, Friedrich Händel, Henry Purcell, Giuseppe Verdi, inizio alle 20.30. Ritorna la rassegna Donna e dintorni, il primo appuntamento della conferenza spettacolo Adelaide Ristori, Marchesa Capranica del Grillo, storia di una diva della Compagnia Reale Sarda, alle 18.30 nella polveriera di Contrada Garzoni a Palmanova. Prosegue da vicino la rassegna organizzata da Fondazione Pordenonelegge.it dedicata all'editoria del Friuli Venezia Giulia. Oggi tocca all'imprenditore Gianni Pasini e al suo libro Tanto di Cappello, Master Italia, la storia di 25 anni di successo, alle 18.30 nella sala Ellero di Palazzo Badini. E alle 7.53 si chiude questa prima edizione del giornale radio del Friuli Venezia Giulia, che è stata redatta e condotta da Dario Ronzoni e Giorgio Bearz, con la collaborazione tecnica di Mauro Ciccarelli e di Walter Vidonis. Ha collaborato in redazione Daniela Sossi. Prossimo appuntamento con il GR dopo l'edizione flash delle 11 alle 12.30. Grazie dell'attenzione e buon proseguimento di giornata. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.